noi chiederemo un atto di responsabilità da parte della UEFA, quindi il rinvio credo che sia l'idea in questo momento da seguire. Domani ci confronteremo, saremo tutti collegati. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Martedì credo che sapremo meglio le cose, quindi sapremo anche come andrà a finire questa stagione, insomma, se decideranno di rinviare l'europeo o no. Se rinvieranno l'europeo credo che, insomma, che poi i campionati possano finire tranquillamente. Io credo che in questo momento qualsiasi allenatore, insomma, la pensi allo stesso modo, di lasciare a casa i propri giocatori e dargli un programma a casa e che si allenino da soli. Sono tutti professionisti e sanno quello che devono fare. Mi adatto a tutto, per me va tutto bene, la cosa più importante è tutelare tutte le persone che in questo momento sono all'ospedale, perché non possiamo perdere delle vite umane così, i nostri nonni che sono la cosa più importante nelle famiglie. Avremo vinto quest'anno, vinceremo il prossimo anno. E mi piace sempre molto Roberto Mancini, nel suo ottimismo e nel suo realismo, anzi. Beh, siete sempre tutti convocati in diretta, quindi contatti, numero verde 800 24 00 24, per le telefonate WhatsApp vocali 349 238 6666. Oggi Alessandro Marco Tullio, tra Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, Pierluigi Pardo collegato. Ciao Pier. Ciao. E il direttore Ivan Zazzaroni. Ciao Ivan. Ciao, buongiorno. Buongiorno a voi, ragazzi. Prima di addentrarci in argomenti più difficili, più alti, più seri, come avete passato la domenica spallonata, Ivan? Ma è l'ultimo dei problemi. Sì. In questo momento, francamente, sento solo delle sirene, per cui non può dire campagna morta, perché non ho neanche pensato. Cioè, neanche... Anche perché i giorni sono tutti uguali adesso. Cioè, non c'è sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, stai in casa, lavori da casa. Chi ha la fortuna di poter stare tranquillo con la famiglia, e quindi certo. Si lavorerà qui, non cambia nulla, no? Sabato, domenica, lunedì. No, prima dicevi di Roberto ottimista e realista, più ottimista che realista. Perché di realismo qui ho visto poco, cioè l'idea che si possa ricominciare in fretta vorrei anch'io poterla condividere, ma non mi sembra, francamente, in questo momento non è il periodo per dare certezze o ipotesi. No, non ne abbiamo, possiamo solo immaginare qualche linea per il futuro. Il quadro è, insomma, è pieno di nebbia. Se domani si deciderà se rinviare l'europeo, e si rinvierà l'europeo quando ci sono un paio di ipotesi. L'europeo lo rinvia sicuro, non che se lo rinviano. L'europeo lo rinvia sicuro indipendentemente da tutto. Perché a parte che noi adesso non siamo nemmeno, come posso dire, nel punto più alto della pandemia, no? Prova a immaginare che è arrivato in Spagna, è arrivato in Inghilterra, è arrivato in Francia, è arrivato in Germania. Quindi la progressione mi fa pensare che ci vorranno tempi ancora più lunghi, nel senso che se noi non siamo arrivati ancora al culmine, figurati gli altri. Sì, Pierluigi, tu vedi la possibilità di qualche sviluppo di questa stagione? È chiaro che stiamo solo facendo della filosofia. No, io credo che la parte più sana e più bella del discorso di Mancini sia il fatto di dire che è contro le vite umane e che tutto il resto si ferma. Quindi aspetteremo tutto il tempo necessario e poi giocheremo a pallone. Mi sembra di grande lucidità, di grande saggezza. E sulle date sono d'accordo con Ivan, non si possono fare oggi previsioni. C'è chi parla di un picco possibile in Italia fra una settimana, c'è chi parla di un picco più avanti. Noi sappiamo di essere fra i paesi europei quelli che hanno cominciato prima, e quindi sì, francamente, insomma, è difficile oggi darsi una data. Potrà essere, come tutte le cose della vita, finisce, ecco, questo ci deve dare speranza. Mi rendo conto che non è molto, però è una pandemia, non è neanche più un'epidemia, e quindi quello che ci dicono gli studiosi, che sono gli unici dei quali mi fido in questo momento, è che, come tutte le cose della vita, finirà, ha un suo andamento, ci sono vari modelli matematici a seconda dei comportamenti che vengono messi in essere per che condizionano poi il tipo di andamento di questa curva, ma è una curva, quindi poi arriverà un momento in cui sarà finita. Insomma, non c'è altro da fare. Domani fanno bene a spostare gli europei, secondo me stabiliranno un principio che la stagione proveranno a finire la stagione per quanto riguarda i club, allungandosi verso l'estate, e poi l'europeo magari proveranno a spostarlo in inverno, avremo un calendario l'anno prossimo diverso, magari avremo una formula di alcune competizioni un pochino più breve, magari non avremo le partite di qualificazione del mondiale durante l'anno, ma le concentreremo in un mese a fine stagione. Insomma, bisognerà usare un po' di creatività. Sì, ma ce la faremo, è l'ultimo dei problemi. No, certamente, si parla a questo punto, anche Gravina questa mattina è intervenuto, ovviamente lascia aperto ogni tipo di possibilità per chiudere la stagione in corso in estate, quando sarà, eccetera eccetera, quindi playoff, playout, stagione spalmata tra la fine di questa e l'inizio della prossima, mi sembra una cosa che difficilmente comprensibile. Come immagini il day after, Ivan? Ah no, più che altro lo sogno di notte, più che immaginarlo, nel senso che sì, è vero la curva, solo che sono tante curve, non è una curva sola. Noi abbiamo una curva, poi c'è una curva che ha preso la Francia, poi la Spagna, poi il Brasile, poi l'Argentina, poi il Giappone. Cioè, ognuno ha la sua curva. Se fosse un'unica curva, probabilmente avremmo ancora più speranze di accelerazione. In realtà è quasi esponenziale, quindi... Boh, non lo so, io ti dico, è vero, bisogna seguire quello che dicono gli specialisti, gli scienziati, gli studiosi, il problema è che ne dicono troppe, è molto spesso una diversa dall'altra, o quantomeno soltanto i medici che vivono giorno dopo giorno il problema possono darti un'idea del momento, anche loro, essendo molto seri, non sono in grado di fare delle previsioni, perché non sono previsioni, però tornando al discorso di prima, lay after come me l'immagino, esattamente... come prima in termini di atteggiamento, molto peggio di prima in termini economici. Sì, è indubbio che questo momento lascerà graffi profondi sul calcio e sullo sport in generale dal punto di vista economico, e anche questo è inteso come day after, quindi ci prepariamo sportivamente parlando a un'epoca di austerity. Ma noi quello che non abbiamo ancora capito, o che molti non hanno capito, è che non siamo nella cronaca, siamo nella storia. Quello che ci sta capitando è storia, non è cronaca, cioè è la peste, è una roba che capita una volta ogni 150 anni, purtroppo siamo finiti dentro, per cui dobbiamo affrontarla come se fosse effettivamente il riferimento che hanno fatto alla guerra, pur se è una guerra senza armi, no? Contro un nemico invisibile che è un nemico di tutti, e poi sperando che finisca in fretta, ecco, non, sperando che tutti facciano quello che gli viene detto di fare, cioè di stare in casa per ridurre il contagio. E poi si spera veramente che questo virus si abbandoni, non so se ci aiuterà il caldo, ti dico, non lo so nemmeno io, perché, e poi ecco, soprattutto vorrei dire una cosa, tutti quelli che sul web o su WhatsApp diffondono messaggi anonimi, no, su cosa dovete fare, cosa non dovete fare, ecco, io quelli li prenderei e darei 500.000 euro di multa, non 5.000, perché è una roba... D'accordo. Attenzione ai messaggi, che siano tutti messaggi di cui si sa il mittente, dove c'è un nome, un cognome, una faccia, esatto, e una persona. Oppure ci quelli anni di arresti domiciliari, ma quelli veri. Posso dire una cosa, in preda non all'ottimismo, perché c'è poco da essere ottimisti, però io quello che penso a livello di società del dopo coronavirus è che ci sarà un equilibrio, cioè l'equilibrio comunque si ricrea, sarà magari un equilibrio economicamente meno florido, ma insomma poi magari le cose costeranno meno, magari gireranno meno soldi, cioè questa è talmente tanto una crisi che colpisce tutti, cioè fosse stata soltanto un problema italiano o della Grecia, come è successo negli anni scorsi, no? O di un altro paese, e allora a quel punto quel paese lì si trova in una difficoltà rispetto a tutti gli altri. E questa è una crisi che riguarda tutto il mondo, crollano non a caso le borse di tutto il mondo. E quindi è il mondo che dovrà interrogarsi sulle priorità, sui valori, sulle cose importanti, trovare nuovi equilibri. Per esempio, che in questi giorni stiamo riscoprendo l'importanza della scienza, l'importanza della cultura, l'importanza del proteggere le persone anziane, cosa che Boris Johnson non ha, diciamo, proprio in testa chiaramente, ma noi sì. Ecco, quindi l'importanza di tutto questo, il fatto che la salute pubblica vale forse più di un punto del PIL, vale forse più di due punti di PIL, almeno io la vedo così, e credo che sia il pensiero di tante persone che in questo momento vivono in maniera ovviamente angosciata queste ore. E poi un equilibrio si ricreerà. Io penso che tutto si risolva. Sì, ma non c'è dubbio. Vivremo su equilibri diversi. È una cosa storica. Vivremo su equilibri diversi anche sul fronte sportivo. E qui torno, perché poi è chiaro che è solo una deriva, un rivolo di quello che sta succedendo. Però è questo che intendo. Cioè, ad esempio, l'altro giorno Giacellino si è affrettato a dire: beh, dateci una mano per pagare gli stipendi. Questo ha fatto imbizzarrire diverse persone, ma credo che potremmo avere equilibri diversi anche dal punto di vista sportivo e della gestione dello sport, è questo che intendo, Ivan. Però non capisco la domanda, cioè in che senso equilibri diversi? Fammi capire. Sarà banalmente, sarà uno sport più povero? Ah, quello è indubbio, perché voglio dire, se tu hai, qui si parla di centinaia di milioni, di miliardi di soldi persi, quindi sarà uno sport più povero, sarà sicuramente, saranno pretese inferiori, però ti ripeto, è bello che noi parliamo di quello che sarà pur vivendo lei, questo è il fatto pazzesco. Io non lo so cosa sarà, nessuno di noi lo può sapere, l'altro giorno appunto me lo chiedevo, come saremo dopo. Mi viene in mente quando una persona esce da un brutto momento, da una brutta malattia o da una tragedia e dice: adesso ho parametri diversi, ho rapporti diversi con le cose piccole, do importanza alle piccole cose, che una volta poi in realtà l'istinto di sopravvivenza ti fa comportare dopo poco tempo esattamente come prima. E altrimenti saremo tutti chiusi in un eremo, no, dopo una tragedia, e non ne usciremo più, ecco. No, ma magari ci tornerà anche una voglia di vivere e uno spirito di vita, che per chi ha letto i libri di storia sa benissimo che spesso c'è, per esempio nel dopoguerra. Sì, ma quello c'è, sì. la voglia di riprenderti gli entusiasmi, e anche dal punto di vista, adesso facendo veramente proprio filosofia spicciola, anche dal punto di vista dei media, quante cose stanno succedendo in queste ore. Vediamo interi programmi televisivi che si reggono su un conduttore in studio, tre telecamere e una serie di collegamenti Skype. Stiamo rinunciando a tante cose, non che fossero superflue, per carità, però in un momento come questo si scoprono anche altre cose. Insomma, io ieri ho fatto una telefonata con i miei amici, eravamo in 8 collegati, non l'avremmo mai fatta prima. Sabato sera ho partecipato a una cena in cui ci si parlava da una casa all'altra. Ieri ho fatto una videochiamata con mia mamma di un quarto d'ora. Ecco, non voglio banalizzare la questione, però dico che dietro ogni crisi, dietro ogni situazione complessa, c'è un cambiamento. Si fanno cose nuove, si scoprono cose nuove. Lo sport sicuramente sarà più povero, perché soprattutto in questa stagione, poi ci potrà essere un effetto a catena su quelle successive. Tu hai banalmente, parto dai diritti televisivi, no? Che sono, come sai, la parte principale dal punto di vista numerico degli introiti. Hai meno partite, rischi di avere meno partite, poi forse magari le recuperi, non lo so, questo potrebbe avere un impatto sugli stipendi, sugli sponsor, sì, sulle biglietterie. Però insomma, io ripeto, credo che alla fine l'equilibrio lo ritroveremo, cioè non, soprattutto perché, ripeto, non è la crisi di un paese, è la crisi del mondo, forse anche la crisi di un certo modello di capitalismo che ci porta a correre, a correre, a correre, a correre, poi un certo giorno arrivi e capisci che un virus che neanche conosci, che da un punto di vista di letalità, mi riferisco a quello che dicono gli stessi virologi, non è nemmeno il più terribile della storia, però è drammaticamente contagioso, in questo tipo di panorama, in questo tipo di scenario, porta il mondo a bloccarsi, perché c'è tutta una serie di interconnessioni nel nostro mondo, per cui tutti con 3-4 gradi di separazione arrivano a tutti, e quindi questa velocità meravigliosa nostra, dell'Occidente, del nostro mondo che amiamo così tanto, diventa il miglior veicolo di trasmissione per sto cazzo di virus. E un equilibrio lo ritroveremo. Adesso dobbiamo semplicemente stare a casa e aiutare chi sta lavorando sul campo e tifare per loro e dare una mano. Sì, di cui tra l'altro ieri nel suo editoriale Ivan ha fatto, non l'elenco, ma ha citato le varie categorie, non sono solo quelli, insomma, impegnati. Mi è capitato proprio questo in radio l'altro giorno, cioè ho citato un paio di elementi, sono arrivate tutte la richiesta di citazione da parte di altre categorie, delle quali noi molte volte ci dimentichiamo, pensiamo che siano assolutamente non inutili ma superflui. In realtà, ragazzi, dagli edicolanti a quelli addetti al recupero, non so, ai tecnici anche delle piccole cose, delle emergenze, a quelli che raccolgono i rifiuti, cioè tutte situazioni che l'autista dell'autobus che guida l'autobus ed è a rischio contagio, tutte situazioni che effettivamente oggi come oggi riusciamo a comprendere maggiormente, ne comprendiamo l'utilità, la necessità, no? Più che l'utilità, la necessità. Però ti ripeto, in questo momento l'unica cosa che io so è che non so quello che succederà. E dopo, è vero, sono tutti gli elementi della guerra, evidentemente, e non lo so dopo come sarà, perché ci eravamo abituati troppo bene, no? Quindi, a differenza delle guerre precedenti, in questa, chiamiamola guerra comunque, perché sono migliaia di morti, evidentemente, ci eravamo abituati a qualcosa di migliore, di una vita più alta da questo punto di vista. Quindi vedremo quello che succederà dopo, come saremo dopo e soprattutto se riusciremo a riprenderci bene, perché poi, ragazzi, la verità è che sono le morti bianche, c'è tanta gente che fallirà, tanta gente che farà fatica a recuperare, a riprendersi, poi c'è, poi c'è l'elemento depressivo, perché poi immaginate anche quanta gente in questo momento vive una depressione molto forte, come ne uscirà. Comunque adesso io sono contento che tu abbia una grande voglia, come ce l'ho io, di parlare in positivo e di guardare al dopo, come peraltro Pierre lo sta facendo. L'unica speranza, ti ripeto, che sia rapida, già è lunga, spero che sia rapida. Allora, bello convocare anche gli ascoltatori e farci compagnia. Dante, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io vi voglio fare un piccolo appunto. Se vi ricordate bene, la settimana, lunedì della settimana scorsa, che cosa avete detto voi, lei, Genta, Pardo e un giornalista che non mi ricordo il nome, mi dispiace. Allora, i giocatori di Serie A sono tutti super controllati, bisogna giocare assolutamente, il presidente della Lega Alpino, ma a Campedo gli fate lo incensate un pochino. Se siete sempre della solita opinione che bisogna giocare, che chi diceva, tipo il ministro dello sport, che bisognava sospendere è uno scemo, anche se non avete detto il termine. No, ma lei ha ragione, abbiamo tutti quanti forse sottovalutato la situazione, no, ma lei, aspetta un attimo, ma lei però Dante, aspetta un attimo. Contro la salute pubblica, scusate. Come? Io non ho mai detto che bisogna giocare contro la salute pubblica. Io nemmeno. È che questo virus ha vissuto di varie fasi, ma il punto di vista fondamentale è quello degli scienziati e quello della politica. Se la politica ti dice che si può giocare e addirittura a un certo punto ti ha detto che si potrà giocare a porte aperte, cioè non è che noi possiamo dire che non si gioca. Questa è la sostanza. Stiamo vedendo in altri paesi europei delle inversioni a U nel giro, fortunatamente inversioni a U, nel giro di poche ore, perché in poche ore ci si è resi conto della gravità di questa situazione. Poi io, il mio personale mea culpa, mio, ma non di persona in radio, di persona che pensava il 25 febbraio o il 26 febbraio che non fosse così grave, lo faccio. Cioè, io non avevo capito perché c'erano anche dei virologi che dicevano che era una normale influenza, ragazzi. Pure questo va detto, c'erano le scuole aperte, c'erano gli stadi pieni. Questo è oggettivo, no? Sì, ma tutti noi nel nostro modo di vivere, insomma, avevamo una percezione diversa una settimana fa di quella che abbiamo adesso. Quindi anche il nostro amico ascoltatore della provincia di Lucca, non so se 10 giorni fa viveva nelle condizioni in cui vive adesso. Quindi ma questo. Carlo, c'è un altro elemento comunque che abbiamo, che non si può trascurare, che tutti noi, guardate anche come sta comportando l'Europa. Tendiamo a proteggere le nostre cose, cioè a parte che non era così invasivo, non sembrava così invasivo in quel periodo, c'era comunque un decreto del governo, quindi il governo probabilmente aveva sottovalutato per primo il problema, però tutti noi cerchiamo sempre di allungare i tempi di una chiusura che ci sembra esiziale, cioè noi che viviamo di calcio speravamo che si potesse vedere la partita, quelli che vivono di basket speravano che non si interrompesse, l'altro che vive di cioè degli alimentari o del commercio speravano che ci fosse un allungamento dei tempi. Questo è naturale, umano, cioè poi è chiaro che di fronte all'inasprimento, no, di questo tipo di situazione, poi devi fare mea culpa, ma è un mea culpa assolutamente naturale e abbastanza semplice, nel senso che tutti noi abbiamo provato a proteggere quel poco di nostro, che era il nostro lavoro, la nostra vita, le nostre cose, e poi siamo resi conto che è talmente grande, talmente immenso il problema, che bisognerebbe prendere decisioni drastiche una volta per tutte. Ecco, noi un'altra cosa, siamo passati come gli untori dell'Europa, non dico del mondo ma dell'Europa, poi adesso però tutti guardano a noi. Come ci siamo comportati? Noi abbiamo, secondo me, ancora una possibilità, Ivan, di uscire dal punto di vista della reputazione internazionale molto bene. Ovviamente dipende molto dai nostri scienziati, dipende molto dalle nostre strutture sanitarie, però noi sicuramente abbiamo avuto a un certo punto questa immagine degli untori, e in questo momento abbiamo, perché le circostanze ci hanno portato a dover prendere delle misure drastiche, e invece il compito di essere il modello per tutti, perché tutti adesso stanno cominciando a fare le cose che noi abbiamo fatto qualche giorno prima. Quindi sì, mi raccontava Italo adesso, Cucci, di un collega che noi conosciamo tutti e tre molto bene, che vive in Francia, che tornava da un lungo viaggio e viveva appunto vicino a Roquebrune, e quando hanno saputo che era milanese non lo salutavano nemmeno più i francesi, cioè quelli che conoscevano lì. Cioè, capisci come l'uomo reagisce di fronte a certe situazioni. Per cui, ragazzi, è così. Cioè, abbiamo provato, senti, tutti a dire giochiamo a porte chiuse. Ma certo, ma ascolta, Ivan, ti chiedo ancora questo. A questo proposito, insomma, non siamo solo noi ad aver detto queste cose, non è solo la Federazione Italiana o la Lega Italiana ad aver detto queste cose. Non più tardi di 4 giorni fa, l'UEFA diceva, vabbè, la Champions si gioca Bayern Monaco, Chelsea... non si giocano quelle porte aperte. Ma come si è giocato a Glasgow in uno stadio pieno? Sì, l'altro, ecco, ieri c'è stato il concerto a Cardiff degli Stereophonics, c'erano 21.000 persone. Sì. Il 5 marzo, quindi pochi giorni prima del vostro lunedì, il signor Ceferin diceva l'europeo si gioca sicuro. Sì. Sì, comunque posso dire, siccome mi ricordo benissimo, adesso per la cronaca, che non il lunedì ma la domenica, in tutti i convocati weekend, mi ricordo benissimo di aver detto, e il mood era quello, che non me ne fregava niente di Juve, Inter e di tutto il resto. Cioè, la situazione secondo me è cambiata, almeno per quello che è il mio percepito e per quello che io dico e che penso dalla mattina alla sera, è cambiata qualche giorno prima del 9. È sì. Cambiata quando si è capito con chiarezza che la situazione stava sfuggendo di mano, che non era il problema soltanto di pochi focolai, che poi sono quelli che hanno paradossalmente reagito meglio, perché sono quelli che da subito hanno fatto una quarantena fatta bene, per cui noi abbiamo ormai da giorni ottime notizie che arrivano dall'Odigiano, ottime notizie che arrivano dal paesino da Po di Brenta, e poi i posti dove è stato fatto il contenimento vero, l'isolamento vero, hanno reagito bene. Quindi no, ma comunque il punto è che la percezione non ce l'aveva, a maggior ragione, anche l'UEFA, non ce l'avevano neanche gli organismi preposti alla gestione dello sport internazionale, probabilmente non ce l'hanno ancora adesso, perché vedevo ora le immagini del preolimpico di pugilato che è in corso in questi momenti a Londra. Ivan, grazie. Grazie a presto. A prestissimo. Grazie. Stefano, buongiorno. Buongiorno a lei, prima di tutto un abbraccio a distanza per la compagnia che ci fate. A lei, ricambiamo. Bene, e volevo sapere, l'allenamento dei giocatori a casa hanno un programma, ma i più penalizzati probabilmente saranno i portieri, perché non basta per loro fare il capirulano. Ma ne abbiamo visti sul web abbastanza di tutti i colori, ad esempio Messi che dribbla il cane, lo stesso fa da Glass Costa su una terrazza di Torino, non lo so, probabilmente sì, ma magari si attrezzano con le compagne, le fidanzate, gli fanno qualche pure tirare qualche sul muro del terrazzo, non credo che sia come tirare in campo, ma è un momento di sospensione, è un momento di sospensione. La cosa vera è che vale per tutti. Cioè, non c'è uno svantaggio competitivo dell'Italia rispetto alla Francia, rispetto alla Germania. Ci dobbiamo fermare tutti. Dobbiamo capire che in questo momento le priorità sono altre e che poi torneremo a giocare a pallone. basta, ci avremo, i giocatori saranno un po' meno allenati nel primo mese, saranno tutti un po' meno allenati. Sì, sarà tutto molto diverso, sarà un inizio della stagione fuori tempo, insomma sarà una cosa così. Francesco, giocheremo, buongiorno. Sarà un momento che giocheremo di più, sì, saremo ancora certo. Più felici, perché si giocherà ogni 3 giorni, non sì, lo so. Sì, sì, sì. Francesco, buongiorno, poi ci fermiamo. Buongiorno, sono io? Sì, prego. Sono da Torino, no, mi scusi per quello, non ero sicuro. Senta, innanzitutto saluti a tutti. Lei. Volevo un attimo parlare di quello che diceva Pardo. Mi piace molto il suo ottimismo riguardo al cambio di paradigma, riguardo al fatto che alcuni valori verranno un po' modificati e ce lo auguriamo tutti, ma onestamente non mi sembra proprio che sia così, e le spiego perché. Cioè, ai calciatori, anche asintomatici, vengono fatti i tamponi a tutti. Ai medici, gli infermieri che sono in prima linea per salvarci la vita, solo di fronte a sintomi conclamati. Se nemmeno in questa situazione qui riusciamo a distinguere che cosa è importante e che cosa no, mi sembra che non stiamo imparando niente da questa lezione. Scusatemi. Francesco, io non sono del tutto sicuro che si faccia i tamponi a tutti asintomatici calciatori, perché mi sembra che la settimana scorsa ci sono quei giocatori dell'Inter che erano in quarantena, ma non siano stati fatti i tamponi. Ora, esiste un protocollo per combattere questo virus. Credo che questo protocollo venga seguito per ogni tipo di individuo, calciatori compresi, questo mi risulta. Poi soprattutto io sono d'accordissimo con l'ascoltatore, sono due piani diversi. Uno è un auspicio su quelli che mi auguro possano essere i valori della società in futuro, questa botta mi auguro che ci dia un po' una regolata. Poi ovviamente c'è bisogno che lo Stato, il governo in Italia e da altre parti aiuti tutti quelli che in questo momento non hanno solo un danno economico come ce lo possiamo avere noi, ma quelli che veramente rischiano di chiudere un'attività. Cioè, questo è un tema a cui poi c'è Baritoni, non usciamo dal nostro campo. Sul fatto che in questi giorni poi ci siano delle cose che non tornano, questo è indiscutibile. Così anche il fatto che ci siano stati negli anni passati, non adesso, ma negli ultimi 20 anni, sicuramente dei tagli alla sanità che rendono questa situazione più complicata, perché è ovvio che con il triplo delle terapie intensive già questa crisi qui l'avremmo fronteggiata con una, sì, con una tranquillità molto diversa e con molti meno morti, ma questo lo dicono i medici, per cui io spero che questo possa servire solo da lezione per il futuro. È chiaro, sì, che quanto al pregresso possiamo fare atto di pentimento tutti quanti insieme in coro. Allora facciamo così, fermiamoci un attimo per la borsa, poi torniamo, abbiamo un grande ospite subito dopo la borsa stessa, e poi per chiudere faremo un salto di nuovo negli Stati Uniti. Carissimo Genta, direi che per cominciare a trovare un nuovo equilibrio dovremmo definirlo magari meno ricco, non più povero, perché di povero non vedo e non ho mai visto niente in questo campo. Io credo che tutto verrà definito dal mercato, che sarà un mercato diverso, mi sembra chiaro. Allora voglio parlare di altro, perché abbiamo un grande ospite che ringrazio in anticipo. Le ultime 2 settimane dell'Olimpia Milano di basket sono state una fotografia abbastanza precisa di questo momento sportivo, istituzionale e sociale. Allora, martedì 3 di questo mese Milano gioca in casa contro il Real Madrid a porte chiuse, con diversi giocatori del Real Madrid che avevano diversi problemi nel venire a Milano, poi sono arrivati trasferta in giornata, arrivo a mezzogiorno, partite, poi di nuovo a casa. Vabbè, il giovedì Milano va a giocare a Valencia, Spagna, del 5 di questo mese, e sappiamo bene quale situazione, inutile fare un riepilogo da questo punto di vista. Si gioca a porte chiuse, poi il giovedì successivo Milano deve giocare con l'Olympiacos, qui ne parlavamo anche col presidente Petrucci, che quel giorno era nostro ospite, presidente della federazione. Ebbene, l'Olympiacos prima dice no, non possiamo venire, non vogliamo venire, poi si dice rinvio di un giorno, cioè al venerdì successivo, in campo neutro, tutte le italiane dovranno giocare in campo neutro, quindi Milano sta per partire per Berlino, non si parte più perché un giocatore del Real Madrid è risultato positivo, dunque Milano finisce in quarantena. Coach Ettore Messina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Mi sembra che la fotografia sia questa, no? Sbaglio? Sì, ha fatto un riepilogo delle date di quello che è successo. Alla fine l'Eurolega, dopo il caso Tompkins e credo anche sulla scia di quello che ha deciso l'NBA nel giro di una notte, che ha sospeso tutto quanto, ha deciso anche l'Eurolega di sospendere, e quindi siamo rimasti a casa, ma soprattutto siamo venuti in quarantena, perché ovviamente allenatori, giocatori, dirigenti eravamo venuti a contatto con Tompkins e bisognava rispettare il protocollo. Ettore, so che ieri ha fatto un intervento a ESPN, notiziario numero uno dello sport al mondo in America. Che cosa ha detto? Ci può fare un riepilogo? Ma mi hanno chiesto un po' della nostra situazione, sia a livello sportivo che soprattutto a livello di città. C'è molta curiosità negli Stati Uniti per quello che noi stiamo passando come paese. La cosa che mi premeva dire e che ho detto è che qui abbiamo veramente un esercito di medici e personale sanitario che sta facendo i miracoli per affrontare una situazione che è veramente dura per molte famiglie, e quindi dobbiamo solo che essere grati a loro. E ho anche detto che abbiamo avuto fino adesso, credo, una risposta del paese incoraggiante, perché c'è stata, al di là degli episodi che leggiamo tutti i giorni sui giornali, però il grosso della popolazione sta facendo, sta rispettando quello che è stato chiesto di fare con disciplina, con senso di coesione, seguendo le istruzioni del governo. Abbiamo messo da parte anche, credo, i litigi politici per un momento, o comunque li abbiamo limitati al minimo. E questa probabilmente è l'unica strada da seguire, perché probabilmente settimane fa e mesi fa tutti noi, e mi ci metto anch'io per primo, non ci eravamo resi conto della gravità di quello che stava per accadere. Pierluigi, vuoi chiedere qualcosa a Ettore Messina? Sì, io volevo capire come cambia il lavoro in questi giorni, ovviamente la quarantena, credo ci sia un discorso psicologico, credo che l'aspetto agonistico dello sport, sono anche le parole di Roberto Mancini, in un momento come questo venga completamente eclissato, giustamente eclissato dalla preoccupazione, e quindi che il vostro lavoro, il vostro stare in contatto sia soprattutto quello di darsi reciprocamente un supporto psicologico. Ma credo che sia così per tutte le famiglie, per tutti gli ambiti. In questo momento qui pensare alle partite, al campionato, credo che sia difficile per chiunque. Adesso per noi il tema più importante sarà, una volta finita la quarantena, vedere se è il caso di lasciare andare a casa i nostri giocatori, non nel senso di non permetterglielo, quanto nel senso di farglielo fare eventualmente nel modo più sicuro possibile, perché in questo momento molti di loro vorrebbero riunirsi con le famiglie, ma non ci sono voli aerei. Non è facile lasciare il paese, non è facile arrivare in un paese straniero e poi dover fare una quarantena, quindi pensare alla sicurezza loro e a quella delle loro famiglie è la cosa più importante. Poi vedremo più avanti cosa deciderà l'Eurolega, cosa decideranno la Federazione e la Lega, cosa decideremo. Sicuramente in questo momento pensare di poter riprendere a giocare in tempi corti mi sembra sinceramente impossibile, e credo che non sia neanche nella testa di tutti. Cioè, qui parliamo di un picco che deve ancora arrivare, e quindi abbiamo davanti settimane, se non mesi, di grande tensione per il paese. Credo che la pallacanestro, comunque lo sport, possano tranquillamente aspettare. Come valuta la gestione di questo momento da parte degli organismi di governo dello sport? Mi riferisco, il CIO deve pronunciarsi, sì, e anche dell'NBA, vista la tua esperienza, anche dell'NBA, certo. L'NBA secondo me ancora una volta per fare gli esterofili a tutti i costi, ma questi in una notte hanno deciso, nel senso hanno trovato Gobert positivo e hanno immediatamente sospeso tutto. Sicuramente si era letto che già da qualche giorno avevano contattato tutti i proprietari, tutte le squadre, avevano già preannunciato partite a porte chiuse, cioè mi sembra che avessero un piano già ben definito e non si sono fatti grandi problemi. Oggi ho letto che probabilmente chiuderanno prestissimo, cancelleranno la stagione della G League, hanno dato istruzioni molto precise sul fatto che i giocatori si possono muovere e non sono obbligati a rimanere, cioè si possono muovere per ritornare alle loro città e non sono obbligati a rimanere per fare allenamento. Cioè, mi sembra che stiano seguendo un protocollo molto, molto preciso. Credo che qui in Italia però non possiamo lamentarci di niente. Mi sembra che come è stato gestito, parlo a livello di pallacanestro, credo che abbiamo reagito con celerità, e quindi su questo non possiamo veramente creare nessuna polemica. Anche a livello europeo, Ettore, vale questo discorso? Cioè a livello della gestione del momento da parte degli organismi europei? Allora, io credo che nella gestione degli organismi europei si sia abbiamo avuto la riflessione, il riflesso, scusami, di quello che stava accadendo nella società civile. Cioè tutti hanno pensato per molto tempo che era un problema italiano, quello del coronavirus, questo è stato un problema cinese. Non pensavano minimamente che la situazione potesse propagarsi anche in Spagna, anche in Inghilterra, in Francia, in Germania, e di conseguenza tutti pensavano di poter continuare a giocare le partite, non ultima quella di pochi giorni fa, dove 20.000 spagnoli sono andati in Inghilterra a fare il tifo per l'Atletico, che è una cosa, se ci pensi adesso, a pochi giorni di distanza, la giudichiamo allucinante e demenziale. Gli organi di governo delle varie leghe hanno pensato che fosse un problema degli italiani e che a loro non sarebbe toccato. Nel momento in cui sono stati toccati hanno reagito con celerità. Probabilmente se avessero avuto un po' più di visione complessiva, forse si poteva fermare un po' prima, però a questo punto le chiacchiere sono inutili, perché tanto quello che è successo è successo. Sì, d'altra parte tu hai allenato non solo in Italia, non solo la nazionale, non solo club, ma a Madrid e negli Stati Uniti, lo sappiamo. Il parametro che hanno usato altrove è stato diverso rispetto a quello italiano, ed è questa è cronaca. C'era da aspettarsi che reagissero così? Sinceramente ti dico, non so se c'era da aspettarselo o meno, tanto è qualcosa che è successo, cioè non è che possiamo adesso andare troppo a ritroso. Secondo me è importante adesso che ci si sieda attorno a un tavolo e si cominci a pensare a che cosa fare dopo, senza aver grandi ansie di ricominciare, perché ho sentito anche parlare di possibilità di riprendere lo sport a porte chiuse, che mi sembra una contraddizione in termini. Cioè io capisco, stando in casa avrebbe bisogno di vedere le partite, avrebbe bisogno di distrarsi, ma voglio dire, lo sport è aggregazione di persone, cioè non ha nessun senso voler affrettare o anticipare un'eventuale ripresa solo per il gusto di riprendere. Prima di tutto bisogna che la società e le persone riprendano, credo, speriamo presto, in qualche settimana, in pochi mesi, una vita normale, e poi per penseremo allo sport. Fermo restando che capisco perfettamente che ci sono preoccupazioni economiche molto importanti, però prima di tutto in questo momento credo che la serenità della popolazione sia la cosa più importante. Sì, dal punto di vista economico ne parlavamo anche prima, ci possiamo attendere degli scenari profondamente diversi rispetto a quelli attuali, degli equilibri profondamente diversi, credo, da questa e da quell'altra parte dell'oceano, Ettore. Ma io credo che in questo momento è ragionevole pensare che dopo questa cosa nulla sarà più come prima. Cioè, vuol dire, non faccio fatica a pensare che ci si possa riprendere rapidamente. Quindi, ripeto, purtroppo stiamo usando parole come guerra. Nel senso che questa è una situazione come una guerra, nel senso che ci sono persone che muoiono, ci sono persone che lottano anziché in una trincea, lottano negli ospedali, ci sono perdite economiche terribili per un sacco di persone a livello individuale, a livello di azienda, eccetera, eccetera. Non è che dopo la guerra riprendi come se niente fosse, bisognerà ancora di più, penso, pensare di fare qualcosa in modo da aiutarsi un po' di più uno con l'altro, e quindi sicuramente si penserà allo sport, sicuramente si penserà, ma è la vita prima di tutto del paese che deve riprendere in una maniera normale, prima di poter pensare di essere a pieno regime con lo sport. Credo che in America faranno una ragione anche lì, ma mi sembra che con il loro pragmatismo per il momento stanno affrontando almeno la questione pallacanestro con molta tranquillità. Hai visto che hanno cancellato rapidamente anche il torneo universitario, che è una delle cose che muove più interesse sia da un punto di vista proprio di appassionati sia da un punto di vista economico a livello di sport mondiale. L'ha cancellato, non ci hanno pensato due volte, hanno detto che i giocatori che hanno l'ultimo anno di college a giocare e in qualche maniera riprenderà. Ripeto, noi adesso l'emergenza degli ospedali è la cosa più importante, poi verrà quella economica, quella sportiva e così via. Grazie davvero, coach, alla prossima. Grazie a voi, buon lavoro.